y yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chi ascolta con attenzione avrà capito tra le righe che spesso faccio accenno al fatto di essere padre. Lo faccio con orgoglio a volte, con rassegnazione altre volte, con un senso profondo di sconcerto altre volte ancora. Padre sono diventato molto tardi, fortunatamente molto tardi, per una scelta volontaria, e a un certo punto ho capito cosa significa vedersi crescere dei figli accanto. Una circostanza molto particolare: la mia generazione è abituata ad aver avuto dei padri che a 40 anni già erano vecchi. Ricordo mio padre a 40 anni già lo consideravo un signore di un'altra generazione. Io a 40 anni ho avuto il primo figlio. Per me era l'inizio di una vita parallela a quella di essere appunto un giornalista, un brillante intrattenitore, l'amico degli amici, l'amico delle amiche e tante altre cose ancora. Essere padre oggi è una gravosa incombenza per persone come Fabrizio Intonti, che comincia a lambire i 40 anni in questo momento, è visto in maniera molto concupiscente dalle sue quasi coetanee, dalle trentenni, che lo vedono come un possibile elemento di fabbricazione di un figlio, che sembra un punto di arrivo abbastanza ambito da una generazione che vede intorno a sé scomparire il genere maschile in età fertile, come fosse, ahimè, vittima di una grande epidemia. Soltanto uomini sposati su piazza, soltanto uomini che sono egoisti e non vogliono aprirsi al miracolo della paternità, soltanto uomini che non prendono responsabilità, soltanto bambinoni e via dicendo. Essere padre oggi però comunque è un'attività praticata da un'infinità di uomini, anche alle nostre latitudini, anche persone che appartengono comunque alla nostra categoria di umana, di professionisti, di persone che hanno donne giustamente, felicemente impegnate nel mondo del lavoro, perlomeno che ci provano, perlomeno che saltuariamente aiutano la baracca ad andare avanti. Quindi la gestione dei figli non è più fatta secondo sistemi tradizionali, secondo l'antico schema: la donna si occupa dei figli e il padre è una figura impalpabile, lontana, carismatica, che al massimo somministra alcune parole di saggezza, però è sempre occupato, è sempre preso, sempre poverino, ha tanto da fare, quindi qualcosa che felicemente si sottrae dal compito quotidiano dell'incombenza anche fisica dei figli. Io mi accorsi a 40 anni che cambiare un pannolino è un'operazione piuttosto complicata, ma uno inizia a farlo e poi lo fa per tutto il periodo necessario. Altri uomini trovano gravosa, impossibile, fastidiosa questa operazione, darebbero qualunque cosa pur di non mettere le mani in quel glorioso prodotto del loro prodotto biologico. 800240024, questa mattina analizzeremo alcune forme, alcuni tipi della contemporanea maniera di essere padri. Papà spartano, pater latitantis. Evasivo e, in caso di vera necessità, irreperibile. Se lo chiamate, il suo cellulare parla per lui. Riprovate più tardi. A casa non ci sta più di 5 minuti e in quei rari momenti non vuole essere disturbato. Fa eccezione a Natale e ai compleanni. Durante le feste comandate non gioca con i figli, ma si diverte con i loro giochi, che poi immancabilmente rompe. Capita raramente che la moglie riesca a incastrarlo per portare i figli al parco. In quel caso, lontano dagli occhi materni, si avvicina al figlio, gli lega un tom-tom al polso e gli dice: «Ragazzo mio, è ora che impari a cavartela da solo. Io ho da fare. Ci vediamo tra 5 minuti». Lavora sempre, così almeno dice. Rientra tardi, mangia la cena riscaldata, russa, esce presto. Nessuno lo vede e si considera un buon padre perché fa tutto questo per il bene della famiglia. Questo dei tipi paterni che stiamo per analizzare e di cui adesso vi citerò la fonte, derivata da una profonda, attenta analisi sul campo, è quello più legato al modello tradizionale che ho appena esposto. Il padre che si sacrifica per il bene della famiglia, il padre sta sempre fuori casa perché fatica, perché i figli possano avere una vita dignitosa. È pur vero questo, ma è una paraculissima maniera per sottrarsi a quelli che sono gli aspetti, se vogliamo, piacevoli, ma anche molto gravosi dell'allevamento di un figlio. Dicevo, oggi ci possiamo avvalere di un'attenta analisi fatta sul campo, non da esperti, non da sociologi, non da analisti scientifici, ma da gloriosi artigiani della professione paterna. Due persone sono trovate a vivere per una circostanza del tutto casuale nella stessa casa. Uno un giornalista, l'altro un architetto e saggista, e si vedono tutte le mattine uscire da casa presa l'incombenza quotidiana di gestire i propri figli. Si sono guardati attorno, hanno capito che potevano fare di questa meravigliosa circostanza un oggetto di ispirazione, e quindi di impegnare il loro tempo non soltanto in rincorse di bambini, in ginocchia sbucciate, in pannolini da cambiare, in magagne da nascondere alle rispettive mogli, ma potevano anche tirarne fuori qualcosa. Infatti è uscito il manuale di sopravvivenza del padre contemporaneo, libro per le edizioni Guanda, scritto da Severino Colombo e Gianni Biondillo. Severino Colombo è un giornalista, scrive sul Corriere della Sera e ci comincia a raccontare di come è nata questa solidarietà fra due giovani padri. Beh, proprio così come raccontavi, nel senso che ci siamo conosciuti non per il mestiere che facevamo reciprocamente, ma semplicemente perché scendendo ci si trovava nel lateo e entrambi con un passeggino e una bambina per mano accompagnavamo i figli a scuola, quindi insomma poi una volta svolta questa mansione mattutina c'era il tempo per un caffè e al pomeriggio ci si ritrovava quando ai giardinetti si spingeva le altalene. Eravamo gli unici padri e la cosa ci ha... È anche una succosa e ghiotta occasione, io ricordo anch'io degli accompagnamenti ai giardinetti dei figli piccoli, uno può anche, se vuole ingannare il tempo, giocare sul senso materno delle colleghe, chiedere consigli, in fondo non ci si annoia, quando si ha gli unici padri al giardinetto circondati da mamme e da babysitter, non è che ci si annoia, perché anche guardando e ascoltando i discorsi altrui si capiscono molte cose, in fondo si socializza. Senti, ma entrambi eravate sottoposti alla stessa routine, ho definito il modello di padre con moglie professionalmente occupata, quindi c'è una gestione del tempo e una distribuzione dei compiti, quindi entrambi eravate del turno mattutino, io sono sempre stato del turno pomeridiano serale, quindi vi toccava organizzare la routine familiare, la mattina vi accompagnavate a scuola, poi magari interveniva la signora nel pomeriggio. Sì, bene o male poteva andare così, se no si va di turno anche di pomeriggio e quindi insomma le occasioni anche per frequentare questo mondo, i parchi, le mamme raddoppiavano, non che questo abbia cambiato il rapporto con le mamme che sono sempre comunque rimaste un altro pianeta, quasi un po' ostili o comunque sospettose nei nostri riguardi, però insomma adesso quantomeno ci accettano tranquillamente. Senti, c'era un'impressione di essere considerati quasi dei personaggi contro natura, essendo gli unici uomini ai giardinetti in quell'occasione, in quell'orario con i figli piccoli, cioè vi guardano come dice ma come mai non ci pensa una donna ai figli? Beh sì, probabilmente la cosa suonava anche strana, però nel giro di poche stagioni le cose stanno cambiando perché i papà aumentano sempre di più, la mattina ormai siamo prevalentemente solo figure maschili che accompagnano i figli e al pomeriggio qualcuno in più si vede insomma. Quindi tu hai osservato, avete osservato, e vorrei che su questo mi confortasse il contributo del pubblico che può chiamare all'800240024, un primo dato è che aumenta il numero dei giovani padri, giovani nel senso, di designazioni contemporanee dell'età fertile paterna, perché hai 40 anni, i nostri genitori alla nostra età avevano già i figli belli grandi, tu hai figli di 8 anni mi sembra, 4-8 anni, ecco, però sei nella media. Come vedevi organizzarsi questi tuoi colleghi di gestione di bambini? Ma guarda, l'approccio è sempre un po' impacciato, nel senso che effettivamente è come se ci si trovasse a fare un lavoro per il quale non si sono mai fatte delle prove, ci si mette in gioco, per cui vedi proprio quelli che non sanno, si guardano attorno cercando di capire qual è la cosa giusta da fare, quelli che prendono l'iniziativa, quelli che cercano di solidarizzare con gli altri padri e finiscono a parlare magari di sport, ecco, perdendo di vista i figli. Gianni Biondillo, buongiorno. Buongiorno a voi. Biondillo è il coautore assieme a Severino Colombo del libro sui padri, ma poi ha reiterato nella sua passione scrivendo anche un romanzo Nel nome del padre, di cui poi parleremo. Ecco, Hai messo a punto, diciamo, una seconda professione, quindi una seconda specializzazione. Di necessità avete fatto virtù e siete diventati esperti analisti dell'improvvisazione paterna spalmata lungo la giornata, non più casuale, sporadica, seduti in poltrona ad amministrare la saggezza del padre. No, guarda, a dire la verità, credo sia la mia prima professione quella di essere padre, poi arriva tutto il resto e questa è la vera novità. Cioè, credo siamo la prima generazione. I tuoi figli quanti anni hanno? Così definiamo. 5 e 9, vanno nelle stesse scuole dove vanno i figli di Severino. Io che ti ho preceduto in questo compito, sai che quando tuo figlio avrà 14 anni andrai in pensione come padre, quindi potrei occuparti di altre cose. Infatti, non mi voglio perdere neanche un minuto, non me le voglio perdere questi momenti. È un insegnamento che io ho avuto anni fa con un mio cliente quando in un cantiere. Mi disse proprio questo: ora che finalmente posso godermi mia figlia, lei ha altre cose per la testa, agli amici, alla sua vita. E allora mi disse: ma è giustissimo che sia così. Goda i suoi figli finché sono piccoli. E io ho preso questo insegnamento come verbo, insomma. Quindi 800240024, questo secondo dato messo a punto, nella vita attiva, fertile e cerebralmente lucida di un essere umano metropolitano, professionalmente attivo, esiste una possibilità di scelta. Godersi i figli nell'età in cui sono godibili, in cui sono teneri batuffolotti, sono divertenti personaggi, con lo spuntare dei baffi, sappiate che i figli non vi vorranno più nemmeno vedere incrociare la loro strada, ma è giusto sia così, è una fortuna che sia così. Quindi spostare l'attenzione rispetto alle ambizioni nel mondo del lavoro, considerando il fatto che uno potrebbe impegnare una decina d'anni, 10-12 anni della propria esistenza nel godersi i figli. Pino, lei è d'accordo? Io sono d'accordissimo e tra l'altro avevo chiesto di intervenire per dire poi delle cose che sostanzialmente i suoi ospiti hanno detto in maniera eccezionale fino a questo momento. E questo mi dà l'occasione, se mi permette, di approfondire un altro tema, e cioè che l'Italia rischia di essere un paese in cui per un padre è difficile fare il padre, qualora la condizione della famiglia muta e anziché essere una famiglia unita diventa una famiglia separata. Lì si apre un altro problema, certo, è chiaro. Sì, sì. E però questo credo che possa inibire la scelta di un uomo nel diventare padre, perché a fronte di una società che muta, che cambia, e i suoi ospiti in maniera eccezionale lo hanno messo in evidenza. Però loro sono felicemente sposati, ancora non c'è questo problema. Di certo, nel momento in cui non c'è il problema, la società è mutata come giustamente deve essere. Il padre, più che un dovere, secondo me esercita un diritto nel momento in cui sta a contatto con i suoi figli. Ma diciamo che dà anche gusto, è divertente. Dà anche gusto, sono perfettamente. Cioè, meglio che avere a che fare con i colleghi che puzzano, che ci vogliono fare le scarpe. Non puzzano, i figli sono una parte di se stessi. Io preferisco l'odore del pannolino di mio figlio alla puzza di sigaretta, di ascelle, di piedi di tanti colleghi che ho dovuto sopportare nella mia lunga carriera. Ecco, però io quello intervenivo per questo, per mettere in evidenza che a fronte di questo che è mutato, viviamo purtroppo in un ordinamento e soprattutto in una prassi interpretativa delle leggi. Ma lei è separato? Perché parla? Non si tiene conto. Sì, io sono separato. E quindi, diciamo, è un problema anche questo, e forse merita un'attenzione a parte. Diciamo che affronteremo a parte il problema dei padri separati. So che è un problema importante per l'affidamento dei figli. Il padre viene sempre considerato una figura in subordine rispetto alla grande madre, che può sempre avere il diritto di prima scelta nell'educazione dei figli. Fermiamoci all'aspetto più legato all'esperienza di questi giovani padri che hanno deciso di fare una scelta. Ha detto: noi ci occupiamo piacevolmente dei nostri figli, non è un onere, non vogliamo delegarlo ad altri. Definiamo che 10-12 anni della nostra vita sarà nel piacere di allevare i figli. Fedele, lei cosa ne dice? Dico che in realtà probabilmente stiamo sbagliando un po' tutto, Nicoletti. Nel senso che io, te e tanti altri uomini siamo il risultato finale di quello che vogliono le nostre mogli. Vabbè, ma mica ve lo ordina il medico, eh. Uno no, le mogli le può anche mandare. No, non facciamo confusione, nel senso che io curo i bambini, curo le bambine, due bambine, le porto a scuola, faccio, perché? Perché mia moglie lavora su di me. Vabbè, è fortunato, scusi. Non fanno le cose che dovrebbero fare, lo so che è sbagliato dirlo, ma che dovrebbero fare le donne. Cioè io e che devono fare le donne? Perché mia moglie non c'era. Ma perché, scusi, non è bello cambiare pannolino? Il pannolino, lo so che è bellissimo. Però non è una cosa che io cerco o che probabilmente tutti gli Ma in quale cercano. Libro della legge assoluta sta scritto che il pannolino debba cambiarlo la moglie invece che il padre? È stato scritto fino a quando probabilmente sono arrivato io, perché prima in vita mia non ho mai visto nessun uomo che cambiava il pannolino. Beh, lei è fortunata, appartiene alla prima generazione che ha piacere di allevare un figlio a Ma tutto non è piacere, tondo. È ottimo e tutto quello che però vuoi. Non si lamenti, sia no, contento. Non mi sto lamentando, lo faccio con il cuore. Lei dice le donne se dovrebbero stare a casa a fare queste cose. Io non so se tu hai occasione di portare bambini a scuola, a danza, certo. A ginnastica, esatto. Tutti uomini. Ci dividiamo i compiti e perlomeno l'ho fatto per tanto tempo, oggi c'è chi lo fa per me, sono fortunato. No, certe volte io starei più, che ne so, meglio a guardare il giornale, a fare qualcos'altro, invece parto e porto le mie bambine a danza. Come fanno il 50%? Ma anche sua moglie fa, non è che voglio difendere a spada tratta il diritto no, delle donne. Io, nel senso, ci mancherebbe, io non sono assolutamente, sono un femminista puro. Guarda che a scuola di danza, se la fortuna di avere una figlia femmina, gli consiglio ovviamente di fermarsi anche durante il saggio, perché ci sono tante mamme lì assatanate che non hanno niente da fare, potrebbe anche intrattenere piacevoli rapporti personali. Una volta notato ci sono parecchi papà. Vabbè. Ciao, grazie. Arrivederci. Severino Colombo, da questi primi intanto assaggi di rivolta maschile e anche piacevole accettazione del ruolo, tu individui qualcosa che hai già visto nella tua indagine? Beh sì, effettivamente questa presenza sempre più massiccia dei padri la dice lunga, cioè ci stiamo prendendo un territorio che fino a qualche tempo fa insomma non era nostro, non era di nessuno, non era della madre. C'ha ragione, era terra di nessuno, è vero, era terra di chi sono, dei nonni, delle colf, degli aiuti, perché se le donne lavoravano e gli uomini non si volevano occupare, qualcuno doveva allevare i figli. Certo. E questo chiama in causa tutta la sfera dell'affettività, per cui, come diceva giustamente questo padre, è un piacere partecipare alla vita dei figli, per quanto spesso si tratti di smistarli da una parte all'altra, però insomma è l'occasione per condividere, per mettersi in gioco e per far valere questa sfera affettiva che non ci apparteneva, che in qualche modo avevamo negato fino a una generazione fa. Io trovo che sia molto un club molto divertente, quello dei padri con i figli, non trovo che sia un'operazione maledetta, innanzitutto c'è una grande complicità. Innanzitutto c'è una grande maniera di osservare e essere osservati il mondo femminile con la garanzia che sia un figlio accanto, quindi è come se si fosse depotenziati, come se avessimo sempre la pistola nella fondina, in realtà non è così, quindi abbiamo un alone protettivo, i figli ci aiutano in questo, sì, sono grandi strumenti di relazione. Una volta si diceva è bello andare a spasso con il cane, che tutti i proprietari di cani socializzi, andare a spasso con i figli è una maniera immediata per socializzare con altre persone su fatti concreti, in fondo è un'affinità trasversale, non trovi? Sì, è vero, è proprio un punto d'approdo sicuro, perché insomma è un passeggino da spingere o un biberon da sciacquare, e crea un'occasione immediata di confronto e di dialogo con una... Adesso la sciolina, hai mai visto, ti sei mai sentito lievemente in uno stato di vergogna per fare queste cose qua, per girare col passeggino, col biberon, un attimo di mi sento meschino, mi sento, ahimè, preferirei non far questo, perché può succedere, a me è successo. Sì, è successo, però insomma si supera, perché effettivamente gli sguardi delle mamme non sono sempre benevoli, quindi questa cosa da reggere non è sempre semplice, però insomma... 800 24 00 24, mi raccomando, il problema è molto chiaro. Qual è il vostro punto di vista quando vedete un uomo per strada con un bambino, un biberon, un pannolino, un carrozzino, un passeggino? Lo guardate con commiserazione? Direte quella donna scostumata, sconsiderata, che permette che suo marito sia ridotto così? O dite beh, per fortuna, grazie a Dio, verrà su una generazione di figli diversa, perché ha un padre che si è occupato di loro. Email melog@radio24.it. Melog 2.0. Papà Marpione, Papponis Cascamortus. Ama la moglie, ma soffre di continui colpi di fulmine. Innocuo. Sempre annoiato, stitico di complimenti verso la moglie, sceglie personalmente i giochi dei figli, scegliendo anche la commessa più carina per consigli adeguati. Predilige le t-shirt una o due taglie in meno per mettere in evidenza i muscoli pettorali. Frase essenziale. Ma tu sembri una ragazzina, rivolto a una mamma che è la migliore amica della moglie. Difetti. Quando fiuta un profumo di donna, tende a seguire la scia, incurante del figlio che sta penzolando pericolosamente dallo scivolo. 800 24 0024, stiamo analizzando una maniera contemporanea di essere padre in tutte le sfaccettature. Infatti mi scrive su Facebook Eva: i papini giovani trentenni che girano in bici, jeans e t-shirt con il bambino piccolo nel cestino mi hanno sempre attratta molto. Ecco cosa me ne farei. e c'è tutta una serie di altre sue colleghe che rispondono in rete alle nostre domande, che giudicano molto sexy il giovane padre con il giovane figlio nella carrozzina. Stiamo parlandone questa mattina del problema della felice congiuntura della paternità responsabile e vissuta perlomeno fino all'adolescenza da giovani padri impegnati anche nel mondo del lavoro, assieme a Severino Colombo, che è un giornalista, e Gianni Biondillo, che è un architetto e saggista, che hanno scritto il manuale di sopravvivenza del padre contemporaneo, Diventare pater in poche oculate mosse, edizioni Guanda. Gianni Biondillo, tu hai anche scritto un altro libro, un romanzo, l'ho accennato, Del nome del padre, dove in realtà il problema nasce da una coppia nella fase corrosiva della distruzione, diventa tutto più difficile. Ecco, questa creatività, questo bricolage paterno, trova secondo te una possibilità di tenere perlomeno insieme l'affettività con i figli in situazioni drammatiche, o altrimenti diventa un ulteriore terreno di scontro e di terribile possibilità di farsi del male, quello dei figli? Ma guarda, è il tema esattamente di cui parlava prima uno dei vostri ascoltatori, insomma. La verità è che noi siamo, come è stato detto più di una volta in maniera giocosa nel manuale di sopravvivenza scritto da me e da Severino, la prima generazione che vede nella paternità anche il piacere dell'affettività nei confronti dei figli, un atteggiamento completamente differente nei rapporti con la famiglia, eccetera, eccetera. Però esiste ancora una legislazione che presuppone tutta una serie di divisioni di ruoli che è vecchia, che è degli anni 50, che è degli anni 60, che giustamente all'epoca, quando nacque, era nata per preservare la parte più debole della famiglia e nello specifico la parte femminile. Oggi questa nuova generazione di padri, di fronte a un divorzio, si vede abbandonata completamente. Io continuo a sentire padri separati che mi dicono: ma io mi sento come un bancomat, tutto quello che faccio è erogare denaro, non ho più i miei figli. E noi non dobbiamo perdere di vista che quando un genitore non fa vedere il proprio figlio all'altro genitore per odio, per le ragioni più incredibili che possono nascere, ma per pura volontà di fare del male in un momento in cui... Per pura volontà di fare del male, perché quella evidentemente è una guerra, perché quando è il sentimento di sconfitta che si ha di fronte a un divorzio, allora si cerca di farla pagare a qualcun altro, che è sempre l'altro ovviamente. Beh, quando questo succede, gli affetti sono la merce più deperibile, perché non vedere tuo figlio per 2, 3, 4, 5, 6 mesi, un anno, sono mesi e anni che non torneranno mai più. Perderai per sempre quel legame che uno si porta dietro con i propri genitori. Insomma, lasciarsi, tutti abbiamo il diritto di lasciarci, perché insomma non è che ci si può amare per sempre, ma abbiamo il dovere di restare genitori per sempre dei nostri figli. E questo che noi stiamo analizzando con divertimento, con leggerezza, come una nuova forma di bricolage domestico, allevare i figli per necessità, va preso anche come un divertimento, un gioco, perché mai fosse un'attività che viene considerata maledetta contro natura, diventerebbe impossibile anche l'allevamento. Severino Colombo, è anche un gioco allevare i figli, l'aspetto giocoso, ludico, divertente. Io trovo un gran divertimento uscire in tribù con i figli, occupare d'imperio la casa quando non esiste la moglie e dimostrare che siete molto più bravi noi, molto più puliti, ordinati. La casa è sempre uno specchio, non c'è il papà solo con i figli. È luogo comune che le donne siano più pulite, più ordinate. Cucinare con i figli è un grande divertimento, non rimane mai una pentola in giro, un piatto sporco. Corrisponde questa mia esperienza anche alla tua? Ma sì, ma perché finisce che le mamme in qualche modo sono vittime del loro ruolo di essere perfette, di avere alle spalle il modello della mamma italiana assoluta e intoccabile, quindi per i papà possono sbagliare e possono farlo con i figli e la cosa risulta divertente e giocosa, per cui sia che si provi a cucinare in casa facendo pasticci e mangiando poi quell'intruglio che si riesce a cucinare, o magari viene qualcosa di appetitoso. Parla per te, io sono bravissimo. Io sono veramente una frana. No, la differenza è proprio in questa, e su questo vorrei che il pubblico intervenisse. Quello che noi facciamo come divertimento, come passatempo, appunto come bricolage, lo facciamo con gioia, con divertimento e con creatività. La donna necessariamente ha sempre visto e vissuto questa incombenza come una condanna biblica, condannata ad allevare i figli, oltre ad averli partoriti con dolore e a occuparsi delle faccende domestiche. Una donna prende in mano una scopa, gli vengono giustamente dei brividi nella schiena per generazioni che sono state inchiodate con la scopa per dannazione, per imperio. A noi pure il caso è un divertimento, è dimostrare al mondo che siamo capaci a farlo. Sara. Sì, pronto, buongiorno. Finalmente una donna. Questa mattina avete latitato voi donne, quasi vi desse fastidio il fatto che ci siamo rimpossessati del nostro diritto di essere padri. Anzi, a me fa molto molto piacere. Io sono, ho voluto intervenire perché sono una giovane mamma di una bambina di un anno, ho 29 anni, una mamma in carriera, più che in carriera, nel senso che a 29 anni ho tutta la vita professionale davanti, quindi sono rientrata a tempo pieno da poco, dopo essere rientrata con usufruendo dell'allattamento. Il mio compagno, che ha 40 anni e che ha una vita professionale meno importante, tra virgolette, ha... Però non lo sottolinei con sadismo, poverino, mica no, colpa sua. Tra virgolette, nel senso che avendo anche 40 anni vuol dire che ha già percorso 10 anni della sua vita professionale, quindi ho più spazio io, tra virgolette. Non lo dice con orgoglio, però lievemente fastidioso, mi scusi Sara, vuol quasi infierire su questo, cioè, ha 40 anni e non si è ancora realizzato. No, ma cos'è questa bomba orologeria che sento alle sue spalle? Sento un ticchettio sinistro. Sono in autostrada con le quattro frecce in un'area di sopra. Ah, brava, giusto. No, nel senso che lui è arrivato dove voleva arrivare, quindi diciamo che abbiamo deciso di prenderci degli spazi diversi. Io non ho mai rinunciato al mio lavoro. Mentre per il primo anno di vita è rimasto praticamente assente perché è un lavoro che lo porta fuori spessissimo anche a dormire, oggi abbiamo deciso di fare cambio, cioè lui si vuole riprendere più tempo per se stesso e per la sua bambina, che oggi scopre con piacere, nel senso che a un anno diventa anche interagisce molto di più, quindi dà anche più soddisfazioni, se così si può dire. Sì, poi ancora è inconsapevole, quindi suo marito è padrone e sovrano incontrastato di casa sua con la moglie che fortunatamente è in trasferta, quindi lo immagino, può fare una festa ogni sera finché la bambina non è tale la ragione, si può divertire. Esatto. Abbastanza. Tra l'altro lui dice sempre, ho scoperto anche che con la figlia si cucca, perché dove va va, ogni volta se io dovessi incontrarlo in giro sono sicura che con qualche ragazza, nel senso che la tenerezza che fa la bambina porta necessariamente, questo è provato. Ma di solito, guardi, glielo dico, conviene dedicarsi alle giovani mamme, così non esiste poi il problema dello strascico sentimentale. E devo dire sì, che è un'occasione ghiotta. Però lei sì, questo l'ha messo in conto, occupandosi della sua carriera, sa benissimo che rinuncia probabilmente all'esclusivo dominio dell'affettività di suo marito. Sì, beh, è un giusto compromesso. Dall'altra parte, quello che dicevate prima del ruolo della donna che ha dei compiti ben precisi e che deve assolvere necessariamente a no, o solo la mamma ma anche la casalinga, trovo piacere a volte nel tornare a casa e non necessariamente dovermi impegnare in quelle attività che facevo un tempo, lo facevo con senza voglia, ero presente ma ero assente. Ma così siete tutti contenti, mi sembra un'ottima formula, quindi stiamo cavalcando una felice contingenza della contemporaneità. Nicola. Sì, buongiorno a tutti. Padre casalingo. Sì, sì, anch'io faccio parte di questa schiera, almeno da un paio d'anni a sta parte. Io ho due ragazzini, uno di 6 e uno di 11. Ho iniziato un po' tardi, però... devo dire che insomma mi sono affacciato a questo mondo affascinante per molti aspetti e quando incontro dall'altra parte della strada un mio pari, un papà che o spinge una carrozzina o va in bici, adesso non posso che essere soddisfatto, lo ero anche prima ma lo trovavo un pochino più strano perché per esempio vengo da una famiglia dove i ruoli sono sempre stati molto distinti. Le famiglie dove veniamo è chiaro sono diverse, però anche lei fa parte del club degli uomini felicemente che hanno trovato una maniera felice e divertente di mettere insieme l'allevamento dei figli consapevole, accettato e una vita sociale non proprio sì, da disprezzare. Questo lo trovo importante, devo dire che sono anche abbastanza fortunato perché l'attività professionale me lo permette e perché io lavoro insomma in proprio e quindi posso in qualche modo gestire i miei spazi e mia moglie lavora in ospedale, quindi si è creata questa cosa all'inizio in maniera abbastanza naturale, poi tutte e due ci siamo organizzati. Diciamo che è anche un bel pretesto per evitare quella soffocante necessità di doversi occupare sempre l'uno dell'altro, parlo di rapporto coniugale, così ognuno è felicemente padrone dei propri spazi professionali, quindi anche di rimando e di risulta anche dei propri spazi di libertà e di espressione affettiva, mentale e via dicendo. Diamo le informazioni al traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog 2.0. Papà iperalternativo, Biopater Ecologicus. è combattuto tra un atteggiamento di pessimismo esteriore, dovuto alle quotidiane catastrofi che incombono sulla Terra, e la serenità interiore per l'incarico che ritiene sia stato affidato a lui e alla sua famiglia. Con la sua compagna, il matrimonio è roba da borghesi, sta crescendo una progenie non dipendente dal Nesquik e quindi in grado di opporsi allo strapotere delle multinazionali e capace di non farsi stritolare dalle pale del mulino bianco. Vive in una cascina appena fuori città, freddina ma accogliente. I bambini hanno perennemente il raffreddore, ma guai a vaccinarli, perché le industrie farmaceutiche ci lucrano. Bagno all'aperto e niente televisore. Noiosissimi padri politicamente impegnati, ideologicamente, volti a già creare ai propri figli un punto di vista che poi dovrebbe corrispondere a loro. Parliamo oggi di padri, di giovani padri, di padri consapevoli, di padri felici, di padri realizzati, assieme a Gianni Biondillo e Severino Colombo, che hanno scritto il manuale di sopravvivenza del padre contemporaneo, edizioni Guanda. Severino Colombo, esiste una circostanza che dobbiamo toccare sicuramente: il padre solo in vacanza con i figli. Uno spasso. Una meraviglia, mai divertito tanto io. Eppure ti guardi intorno, io quest'anno sono stato in vacanza con i figli e effettivamente le mamme non so perché non si divertono, non se la prendono come se fosse una vacanza. Sono angosciate, si mettono a ciabattare, a richiamare subito i figli, non andare in acqua, sei al mare, non puoi entrare in acqua, non giocare con la sabbia e non puoi stare in acqua e non puoi stare sulla sabbia. E dove deve stare? Per aria un bimbo? E invece, non so, sei in vacanza, soprattutto in quel momento, prendite la calma. Devo dire che spesso i figli, non cito circostanze autobiografiche perché anche io devo tornare a casa, chiedono solidarietà al padre: papà, aiutami e salvami dalla mamma, ma non dalle felici e amorose attenzioni materne. Noi padri siamo forse più disastrosi e più sconsiderati, ma tiriamo su dei figli che probabilmente saranno più consapevoli dei loro limiti e delle loro possibilità di espansione. Paolo. Ciao Nicoletti, buona giornata a tutti. Avanti. Io volevo intervenire giusto per dire che latitano ancora le donne, vedo che questa mattina stiamo dando un colpo al cuore alle tante mamme che pensano di essere al centro della possibilità di allevare figli. Sono impegnate coi figli. Allora, sono veramente contento di vedere in giro padri, giovani padri o meno giovani con i bambini. Cioè, trovo una cosa veramente bella, mi sembra di vedere che si divertano. Sì, diciamo, sono due gli atteggiamenti. Io spesso vedo in giro uomini schiavi, vedo uomini con passeggini, bambini e mogli accanto. È la tipica forma dell'uomo schiavo, perfettamente assorbito nel ruolo di reggi biberon, di spingi carrozzino, perché c'è sempre una moglie vicino che continuamente gli sottolinea le sue manchevolezze, i suoi limiti. L'uomo solo con i figli è un re, un padrone, un sovrano incontrastato. Sei d'accordo, Severino? Sì, è decisamente più serena come situazione, insomma, non c'è l'assillo del dover fare, dover portare, essere efficiente. Si può permettere di sbagliare, insomma, può anche proporre delle cose estreme. Io e i miei figli li porto a vedere le mostre d'arte, non hanno mai fatto nessun danno, si sono divertiti un sacco, eppure, insomma, mi sembra che possano arrivare a queste sfide. Io non posso dire alla radio dove porto i miei figli, ma li porto anch'io a vedere delle cose che i bambini non dovrebbero nemmeno vedere. Non parlo nulla di osceno, ma nel senso, me li porto sempre dietro, non risparmio nulla, i miei occhi sono i loro occhi. Massimiliano. Buongiorno. Mia esperienza, sono diventato padre a 41 anni e praticamente appena l'ho vista lì dietro al vetro ho dato ragione a chi studia il DNA, in effetti era una mia fotocopia. Io gli ho giurato di essere suo schiavo per tutta la vita, comunque bene, poi nel frattempo cresce, le cose un po' cambiano, però diciamo la cosa stupenda è stata che io fin da subito ho cambiato pannolini, l'ho lavata, l'ho allattata col biberon, preparavo la pappetta durante la notte. Io sono un libero professionista, nel mio lavoro spesso, come qualcun altro prima ha detto, visto dei clienti e mi dicevano: ah, io non ho visto crescere i miei figli, questa cosa mi dà fare. Allora io ho deciso di vederla tranquillamente crescere, tant'è vero insomma che fin da subito c'è stato questo forte legame. Da intorno prima che compiesse un anno l'avevo cominciato a far vedere dei video musicali di Genesis, Queen e quant'altro. A 3 anni l'ho portato al concerto dei Genesis qui a Roma, gli piacciono molto le canzoni dei Queen, le canta. Io ricordo di essere stato molto bacchettato perché dalla tenera età Era il periodo che avevo scoperto i videogame, il mio primo figlio lo mettevo assieme a me davanti al computer a giocare con i videogame. Oggi è un grande giocatore perché ha 14 anni, ma allora trovavo che fosse un percorso di ammaestramento dell'esperienza paterna molto valido, soprattutto i giochi di avventura, la risoluzione dei percorsi, i combattimenti. Non c'era altra possibilità di vivere assieme a un figlio alcune esperienze che non magari attraverso un videogioco. Tutti mi dicevano: ah no, di farlo giocare con i vecchi sani giochi di una volta, sennò diventa un disastrato. Ma in realtà ha cominciato a imparare a usare quelli che saranno gli strumenti attraverso cui domani lavorerà. Severino Colombo. Sì, è proprio così, insomma, non bisogna tirarsi indietro di fronte a quelle che potrebbero apparire delle contraddizioni, insomma. Ci sono giochi di una volta che, va bene, possono piacere o non piacere, e ci sono i giochi moderni con i quali occorre confrontarsi, insomma. I miei figli smanettano col computer, anche quello di 4 anni, se si mette a giocare, a fare paint, si realizza dei piccoli capolavori, insomma, o si stampa da solo i gormiti da disegnare. Che è una delle attività che però viene più sottolineata come attività deleteria e distruttiva, quella di lavorando noi tutti con un computer e avendo dei figli che devono star buoni, la maniera migliore è dare a loro una tastiera e farli divertire, che almeno ci lasciano in pace e respirare in quel momento. Potrebbe essere una soluzione, però insomma di danni non ne fanno, si divertono e effettivamente imparano a maneggiare gli strumenti del futuro. Ecco, sentiamo l'ultimo dei profili tratti dal vostro libro, della infinita, variegata e complessa tipologia dei padri che rappresentano qualcosa di nuovo e completamente diverso rispetto al modello tradizionale nelle figure di allevatori di figli. Papà competitivo, Pater Competition. È uno sportivo. Pertanto, comodamente seduto in poltrona, segue in TV qualsiasi sport, purché ci sia competizione, senza bambini tra i piedi. Appena mette il naso fuori di casa, si trasforma, riscopre la sua natura. La vita è una gara. Si mette sul marciapiede con un urlo di battaglia. Pista! Il passeggino diventa una Ferrari, con tanto di bambino rampante in equilibrio precario. Nell'abbigliamento è d'obbligo l'orologio con cronometro per prendere i tempi sul percorso abituale dal parco giochi a casa. Questa è una figura di padre che in realtà si sottrae a quello che è questo ruolo che stiamo sottolineando. Per lui i figli diventano un orpello faticoso e un'interruzione alle sue attività sportive. Sì, di fatto sì, però insomma ce ne sono di tutti i tipi in giro, per cui ci piaceva l'idea anche di fotografare le differenze tra un tipo e l'altro. Poi tutti possono migliorare, questa è la cosa positiva. Tutti possono aspirare a diventare dei padri migliori, perché l'importante è non definirsi come un modello di perfezione. Siamo perfettibili e consapevoli delle nostre scelleratezze, ma ne andiamo fieri. Assolutamente. Chiara. Sì, buongiorno. 24enne. Sì, io sono una testimonianza di figlia che è vissuta tanto con il papà. Quanti anni ha suo padre? Allora, mio padre ne ha 57. Quindi all'epoca ancora era tabù cambiarci il pannolino, però al parco giochi, in piscina, ci ha sempre accompagnato lui. Quindi suo padre è un precursore di questo modello contemporaneo che stiamo definendo. Esatto, io penso che abbia avuto quel periodo di transizione tra il papà che non seguiva i figli e il papà che invece adesso se ne prende cura quasi al 100%. Quindi un apripista è stato, l'esito di un apripista. Esattamente, e quello che voglio dire ai papà è: seguite i vostri figli, soprattutto le bambine femmine, perché possono imparare tantissimo da voi e hanno quell'aspetto di componente maschile che le mamme non sono in grado di dare. Per fortuna. Esattamente, giusto. Se no sarebbe un problema familiare molto diffuso. È che oggi è molto difficile individuare questa componente maschile in tanti padri, quindi si apre un problema ancora più complesso, ancora più difficile da definire, che rimanderemo in una successiva trasmissione. Che mi sembra che il problema della paternità consapevole e felice sia molto sentito dai nostri ascoltatori, soprattutto maschi, un po' meno dalle donne, che probabilmente questa mattina sono state infastidite. Ringrazio Severino Colombo, ringrazio Fabrizio Intonti e me, con una lacrima fuggevole, ringrazio Paolo Corleoni. Questa è l'ultima diretta che fa con me dopo 2 anni. Io tornerò alla volta di Roma, anzi dopo 3 anni, tornerò alla volta di Roma e lui rimarrà qui, eternamente prigioniero, nel palazzo di vetro di Renzo Piano. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 800 28 11 11. Radio 24. La passione si sente.